الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. Venire voglia di sputare addosso a quei cani islamici. Il mio nome è Ellen C. Foster, scrivo per il New York Times, scrivo di politica, mi occupo di affari internazionali, leggo i giornali, non guardo quasi mai per scelta la televisione, non la sopporto. Eppure, quella mattina la accesi e su ogni canale si potevano vedere le torri. Le torri del World Trade Center che bruciavano come due giganteschi fiammiferi. Mia sorella era lì, nella seconda torre, mentre un aereo ci si infilava dentro come un coltello si infila nel burro. Non lo so che cosa ho provato in quei momenti, non me lo ricordo. Ero un pezzo di ghiaccio, il mio cervello era di ghiaccio. Io e lei passavamo molto tempo a parlare del Medio Oriente. Ed è questa la cosa che più mi fa incazzare. Il fatto che ci fossimo sinceramente preoccupati di capire quel genere di attacchi e che poi lei avesse perso la vita per mano di uno di quelli. Che cosa provo per i kamikaze che sono morti con lei? Nessun rispetto. Nessuna pietà. No. Neanche pietà. Avanti, forza, cammina! Cazzo, muoviti! E siediti! Come ti chiami? Come ti chiami? Mansur Iqbal. Sei afghano? Sì. Sei di Al-Qaeda? Cosa? Sei di Al-Qaeda? No, io... Guardami. Guardami! Sei di Al-Qaeda? No! E quest'altro stronzo? Vi abbiamo beccato sulle montagne dell'Afghanistan, in mezzo ai talebani. Cosa? Ai talebani? Io non sono un talebano! Io sono un taxista! Quando ti abbiamo trovato, non eri in un taxi! Io ero in casa mia! In una baracca sulle montagne! Era un rifugio di Bin Laden! No! No! No! No! E quest'altro idiota! Che cazzo ci facevate insieme, eh? Io non lo conosco! Io non l'ho mai visto! Stronzate! Stronzate! Stavate preparando un attentato, non è vero? Tu non sai che cazzo chiedere, vero? Tu non sai che cazzo chiederci. Che cazzo ci facevi in giro di notte? Tu stai confondendo l'Afghanistan col Pakistan. Che cazzo ci facevi in giro? Non lo so, ho sentito del casino, sono sceso per andare a vedere. Senza documenti. E di dove sei, pezzo di stronzo? Tipton, Birmingham. Birmingham? Tipton, Birmingham, Inghilterra, sì. Sei inglese, pezzo di stronzo? Sì, sono inglese. E che cazzo ci facevi in Pakistan? Vaffanculo. Tu rispondimi, stronzo! Basta. Mi hai rotto le palle. Sei sotto custodia americana. È tutto ok. Sbattete la camp X-ray. Ok, ora voi due seguitemi, cazzo! Adesso voi starete qui, chiaro, zitti e seduti! Non lo voglio ripetere una seconda volta! Zitti e seduti! Sono seduto! Ho detto zitto! Psst. Ehi, sei un terrorista? Ma terrorista? Ma quale terrorista? Io sono un taxista! Io sono Jamal. Jamal Halarit. Sono inglese, ma di origini pakistane. Da quanto tempo sei qui? Credo 2 o 3 mesi. Ma prima stavo da un'altra parte. Un'altra parte dove? Non lo so. Qui non fanno altro che chiederti se sei amico dei terroristi o hai il numero di Bin Laden. Stronzate simili. Ma... se non abbiamo fatto niente, adesso... adesso ci lasceranno andare via, vedrai. Non è possibile! Non è possibile! Io devo andare via da qua! Zainab, sarò impazzendo! Che cazzo stai facendo? Che cosa ti ho appena detto? Devi stare zitto e seduto! Seduto e zitto! Ma cosa cazzo fai? Ti vuoi far ammazzare? Ehi, ehi, hai detto Zainab? Chi è Zainab? Dimmi. Zainab? Zainab è mia moglie. Ha sposati da 2 settimane. Non ci siamo scelti, ma la sera prima, per qualche minuto, io sono riuscito a parlarne. E lei era consapevole, sicura, forse più sicura di me. Pensavo, ma cosa proverà quando quelle sue mani di seta scivoleranno fra le mie così, così ruvide, piene di calli? E quando metterà quel suo velo tra i miei capelli? Durante i festeggiamenti è venuto a piovere e damigelle e pastori correvano via ridendo e battevano i piedi nel fango della terra. Lei era bellissima. Così chiara, limpida. Fra la pioggia trasparente e quella sabbia arancione. L'incontro fra un uomo e una donna non è mai una cosa banale. Mai. Cazzo. Che storia. Ecco fatto. E dato che le sfortune non vengono mai sole, amico mio, adesso ci si mette anche a piovere. Ti assicuro che qui non piove mai. Avanti, avanti, avanti, forza! Agli interrogatori, veloci! Veloci, cazzo, muovete il culo! Ho detto muovete il culo! Ho detto veloci, cazzo! Anzi, oggi vi faccio una bella sorpresa. Voglio concludere il discorso dicendovi una cosa. Gli attacchi terroristici possono scuotere le fondamenta dei nostri palazzi più importanti, ma non potranno mai, in alcun modo, minare la determinazione d'acciaio dell'America. Siamo ancora forti. Scusi, una domanda sola. La guerra in Afghanistan continuerà. I terroristi sono stati catturati. Stiamo agendo con la massima severità. I terroristi vengono portati in carceri di massima sicurezza. E fino a quando anche l'ultima cellula terrorista non verrà neutralizzata, la guerra in Afghanistan continuerà. Segretario, quando potremo avere gli esiti dei processi? Non è previsto alcun processo per il momento. Arrivederci. Sta dicendo che non avete accuse contro di loro? Signorina, sono tutti quanti possibili terroristi. Ma, segretario, sono necessarie regolari accuse e un processo. Signorina, io conosco benissimo la Convenzione di Ginevra e so benissimo come utilizzarla. Adesso scusate, ma ho degli impegni istituzionali da compiere. Arrivederci. Aspetta, una domanda, per favore. Campi di prigionia Stati Uniti. Errore di sistema. Accesso non consentito. Carceri di massima sicurezza Stati Uniti. Dunque, Stato di New York, la California, Cuba. La base americana di Guantanamo sull'isola di Cuba è stata di recente convertita in un campo di... in un campo di interrogatorio. Possibili sospettati di atti terroristici. Norme processuali base di Guantanamo. Errore. Accesso negato. Processo Guantanamo. Errore di sistema. Perché non posso accedere? Raid americani in Medio Oriente. I rapporti della Croce Rossa parlano di detenzione disumana e degradante. Ma per favore. Significherebbe che i nostri militari in Afghanistan non stanno facendo prigionieri di guerra. Rastrellamenti di villaggi, rapimenti di civili. Ma perché? Con quali accuse? Con quali prove? Si salve, buongiorno. Devo prenotare un volo. Avanti, hai sentito il colonnello? Forza, raccontagli come sei stato catturato. Erano in sei, tre alle spalle e tre di fronte. Ero in casa mia, appena tornati da lavoro. Avevo iniziato la preghiera della sera. Erano in borghese? Io non me li aspettavo. Mi hanno dato un calcio in pancia. E il cappuccio nero? Mi hanno colpito alla testa. Mi sono svegliato su una jeep. Erano americani, macchine americane, accento americano. Afghani, come me. Per un inglese è umiliante stare sotto a chi ti parla con quell'accento. Ma poi mi hanno consegnato ad altri militari. Mi hanno dato un pugno in bocca. C'era puzza di sangue. Mi hanno sbattuto in un camion. C'erano altre persone. Saremmo stati 100, 150. Due giorni. Non si respirava, cazzo. Non si respirava. Senza mangiare. Senza bere. Senza bere. Ho provato a urlare, a protestare. Volevamo solo un po' d'aria. C'era una puzza orrenda. Merda e sudore. Non so quanto tempo sia passato su quel camion. Una settimana. Una settimana? In mezzo al deserto, sotto al caldo. uno addosso all'altro, peggio delle bestie. E quando hanno aperto il portellone? Urlavano, era notte, io non ci capivo un cazzo. Chi si lamentava? Shhh! Veniva trascinato fuori! E non si lamentava, era perché era morto. Eravamo in più di 100. Siamo scesi in 20. Io ho visto mucche alle scarpe e frugavano in mezzo ai morti. No, il cappuccio! Avevo paura! Mi hanno spogliato. Lavato con l'acqua gelata. Traslato a zero. Legati... Tosato! Legate per le mani, per i piedi. Una pecora del cazzo. Ero scalzo. Sono trascinati con delle corde. Ho sentito il metallo freddo sotto i piedi. Non ci credevo. Era un fottuto aereo. Non avevo mai volato, non sapevo cosa fosse quel rumore assordante. A 3 ore senza mangiare. Senza mangiare. Senza bere. Mi hanno sbattuto a terra poi. Ho rialzato, urlavano qualcosa. Non ci capivo un cazzo. Ma dove sono? Dove mi portate? No, vai! Assegnati a Camp X-Ray. A Camp X-Ray ci teniamo le bestie. I detenuti non collaborativi. Come potete vedere, le gabbie sono all'aperto. Vietato stare in piedi. I turni sono di 12 ore. A mezzogiorno c'è il pranzo. Alle 2 gli date i loro libri e li fate pregare. Veglia antisuicidio ogni 3 minuti, 5 volte al giorno, interrogatori e perquisizioni. Una volta a settimana si cambia il secchio della merda. Ah, a proposito, nella zona i detenuti hanno la stramaledetta abitudine di rompere coglioni. Fanno scioperi, digiunano, provano a suicidarsi. Voi glielo dovete impedire. E se lo fanno, urlate. La metà di loro non capisce un cazzo l'inglese, ma un calcio e un pugno sono efficaci mezzi di comunicazione in tutte le lingue. Non fatevi problemi con loro, qui siamo in guerra. Certo, hanno smesso di farsi esplodere per le strade e non imbracciano degli F-16, ma questa è comunque una zona di guerra. È chiaro? Sì, signore! Bene, adesso, per quanto riguarda il turno di notte, il detenuto 715 va spostato di cella in cella una volta all'ora per tutta la settimana. Chi di voi invece sta a Camp Delta? Mi scusi, signore. Signore. Come fa a dormire, signore? Non dorme, imbecille. Chi sta a Campo Delta, la situazione... Ma questo non viola le procedure standard, signore. Ascolta, femminuccia. Sei venuta qui per fare soldato o la croce rossina del cazzo? Il soldato, signore. E allora non rompere i coglioni. Scusi, signore. Seguitemi. Dicevo, chi sta a Campo Delta, la situazione è diversa. Abbiamo cinque... Riesco a dormire. Fa troppo caldo e le luci sono troppo forti. Credo che anche da te, a casa, ormai l'estate sia arrivata. Mi raccomando, resti sempre di chiaro e non stare troppo tempo al sole in questa stagione. Quante cose vorrei dirti, amore. Se solo tu leggessi questa lettera, sapresti che io sto bene, Zeno. Sto bene, che sono ancora vivo e ci sono ancora. Sai, qui ho conosciuto un ragazzo. Si chiama Jamal. È inglese e pakistano. E stiamo diventando amici, credo. Magari, chi lo sa, quando torneremo a casa te lo farò conoscere. Sai, mi fanno proprio ridere questi americani con le loro stronzate. Ancora pensano che io sia in combutta con Bin Laden. Secondo te a me mi sta bene che quello ha ammazzato migliaia di persone, eh? Io sono musulmano, ho una morale. Ma ti dico una cosa, che se ti fanno vivere all'inferno circondato dai diavoli, te ne sbatti della morale. Vuoi fare l'angelo e sei circondato dai diavoli? Così ti suicidi, Jamal, amico. Io non sono d'accordo. Se tu... Mansur, leggi... No, non lo dico mica io questo. Questo lo dice Tupac. Chi? Mansur. Tupac. Yo, nigga. Dr. Dre, Eminem. West Coast, East Coast, nigga. Niente. Mansur, ma da dove cazzo vieni? Dalla periferia di Kabul! Ah, ecco. Merda, amico, devi farti una cultura, ti salva! Facciamo una cosa. Ripeti insieme a me, eh? Dopo di me, ripeti. Proviamoci. Ah, attento, bello! Era un po' veloce, Mansur, forse. Era un po' veloce, rifacciamola, però, riproviamoci. Seguimi, ok? Dai, fida. Ah, attento, bello. Attento, bello. Guardati le spalle. Guardati le spalle. Vogliono che noi gli raccontiamo balle. Difendano l'America ad armi spianate. Nel frattempo hanno il cervello pieno di stronzate. E zitto! A terra, stronzo! Jamal, senti qua. Se ti danno il Corano, tu preghi la mattina, ma anche se sei inglese, non preghi la regina. Sì, sì, è giusto, bene, bene, stai su una buona strada, Mansur, bravo. È inglese comunque. Inglese. Inglese. Buonanotte, Massoud. Buonanotte, Jamal. Benvenuta sull'isola di Cuba. Miguel Hernández, ti ringrazio. E chi l'avrebbe mai detto che una fiera sostenitrice del Partito Repubblicano come te potesse ritrovarsi di nuovo qui, nella roccaforte dell'anticapitalismo? Sono sorpresa quanto te, credimi. Ma non è che in realtà ti è improvvisamente tornata voglia di vedermi? Sai meglio di me che ci sono troppe divergenze d'opinione fra noi due. Un tempo le sostenevi anche tu, quelle opinioni. Sì, un tempo. Vuoi davvero metterti a parlare di questo adesso? Ellen. Mm-hmm. Sto scherzando. Sono contento di rivederti. Come stai? Beh, sto ancora cercando di dare un senso a tutto quello che è successo. Senti, Ellen, quando io ho saputo avrei lo voluto... So. Ti ringrazio. Io ho fame. Cicciaritas, un bel piatto di cicciaritas, sì. Ti va? Uh-huh. A casa ci andiamo dopo. Hanno aperto un locale. Entra San Francisco e poi... Come posso aiutarti? Sto facendo una ricerca e mi serve un'informazione. Come ci arrivo da qui alla base americana di Guantanamo? Sarebbe un viaggio vuoto, non ti farebbero accedere. Non farebbero accedere una giornalista degli Stati Uniti. Perché sei interessata alla base di Guantanamo? È perché su alcuni siti non ufficiali ho trovato dei rapporti senza senso, diffamatori. Parlano di torture e di prigionieri senza accuse. Beh, voglio ufficialmente smentire queste dicerie. Perché tu sei convinta che certe notizie siano da smentire? Miguel, per favore. Quella base è gestita da funzionari degli Stati Uniti. Non permetterebbero mai niente di tutto ciò. Senti, Ellen. Io non posso aiutarti a entrare lì dentro e ti assicuro che nessuno ti darebbe retta se tu volessi intervistarmi. Ma se ti fidi, posso dirti quello che so io sulla prigione. Quindi anche tu sostieni che quella sia una prigione? Sui siti ufficiali del governo c'è scritto che usano la base per lo stoccaggio del carbone. Ah, davvero? Sì. Pensa che è usata come campo di interrogatorio, per essere più precisi. Campo di interrogatorio. Mm-hmm. I campi di interrogatorio sono stati dichiarati illegali dalla Carta dei diritti umani. La mia nazione ha combattuto esattamente per questo 50 anni fa. È incredibile. È incredibile che una donna intelligente come te faccia finta di niente. Secondo te come ha fatto l'America ad avere una base militare a Cuba? Gliel'ho chiesta gentilmente. Sentimi. Ellen, fine dell'Ottocento, guerra ispano-americana, ti ricorda qualcosa? Nelle vecchie colonie in Sud e Centro America tirava aria di rivolta. Nasceva un movimento di liberazione che otteneva sempre più seguaci. tutto questo, indovina chi sentì il profumo di Guadagno? Gli Stati Uniti da tempo desideravano l'isola di Cuba e quella fu l'occasione migliore. Il conflitto durò pochi mesi, gli americani dichiararono guerra alla Spagna e invasero in forze la baia di Guantanamo, usandola come testa di ponte per accedere all'isola, per salvare Cuba, renderla libera. Nasceva così un governo cubano indipendente, ovviamente in mano agli americani. Tra i vari favori che ottennero dalla vittoria, gli Stati Uniti ebbero la locazione perpetua come deposito per il carbone della baia di Guantanamo, per $2,000 l'anno. Fortunatamente venne il 26 di luglio, Fidel rovesciò la dittatura e il governo della rivoluzione si rifiutò di incassare quel ridicolo affitto, sostenendo che il contratto era illegale. Ma ovviamente questo agli Stati Uniti non interessa e continuano a fare ciò che vogliono della baia. Va bene, quindi se è come dici tu, dopo l'11 settembre gli Stati Uniti usano la base come campo di detenzione per i prigionieri di guerra. Beh, questo è possibile. Campo illegale, pieno di prigionieri innocenti. Senti, può non essere del tutto legale il possesso da parte degli Stati Uniti della baia, ed è chiaro che pensi a questo con un certo rammarico, capibile del resto. Ma mi stai parlando di violazione dei diritti umani. La mia nazione non farebbe mai niente di così atroce. Protegge il suo popolo, facendo prigionieri di guerra che meritano di stare là. Ellen, come puoi pensare che... Non ti permetto di dire niente per giustificarti. Io non giustifico nessuno, Ellen, ma ti chiedo di calmarti, di mettere da parte questo odio cieco e di capire... Il mio non è odio cieco. Io voglio giustizia. Ellen, tutti vogliono giustizia, anche loro la vogliono. Loro chi? Loro chi? Quei mostri che stanno là dentro? Quelli che hanno ucciso mia sorella! E tu sei sicura che i responsabili della sua morte siano dentro Guantanamo, eh? Nelle mani del governo degli Stati Uniti? Non lo so! Io non lo so. È quello che sto cercando di scoprire, Miguel. Ellen, hai mai provato a cercare nei siti del governo, al di là del deposito per il carbone? Certo che l'ho fatto. E non mi dà che una cosa. Errore di sistema. Tempo fa intervistai una politica americana, Diane Jenkins, l'attuale segretario della difesa, no? Le feci alcune domande in merito al rinforzo del contingente americano a Cuba. Ha provato a cercare sui siti del governo? Lì troverà certamente tutto quello di cui ha bisogno. Ho cercato su ogni sito e non ho trovato niente. E allora non ha bisogno di niente? Scrissi un articolo, denunciando la mancanza di informazioni. E poi? Un anno dopo quell'articolo, il mio visto per gli Stati Uniti non venne rinnovato, incompatibile con gli standard di sicurezza del paese. Anch'io ho parlato con il segretario Jenkins e mi ha detto che non sono previsti processi. Miguel, se quello che dici è vero, centinaia di uomini innocenti potrebbero passare anni rinchiusi là dentro. Il mio paese è da sempre simbolo di giustizia, di uguaglianza e di libertà. Lo sai come vi fanno sentire liberi, Ellen? Prendendo la libertà degli altri e annullandola. Questo sistema continuerà a trattarvi da schiavi, ma vi farà sentire liberi, perché siete meno schiavi degli altri. Il terrorismo è una cosa atroce, Ellen, ma anche gli americani che sono entrati per primi in quei territori, che hanno stravolto una cultura che era già a rischio. Dov'è la giustizia in tutto ciò? Guarda Cuba. Siamo intrappolati dentro casa nostra, siamo fuori dal mondo. Degrado, povertà. È vero. È vero, abbiamo lottato, abbiamo usato la violenza, instaurato un regime, ma perché rispondevamo con la stessa lingua del nostro nemico? Ma sangue chiama sangue, Ellen. C'è un altro modo di combattere. Tu hai un nome, hai una fama da giornalista internazionale. Tu potresti denunciare tutto questo, partire dai prigionieri di Guantanamo e arrivare fin dentro la Casa Bianca. Te lo assicuro, Ellen, che tu saresti molto più forte di qualsiasi bomba. Dobbiamo parlare, Ellen. Dire la verità. Che hai, Mark? Niente. Non è vero. Ci vediamo una settimana ogni due mesi, mi puoi pure dire come sto. Non è certo colpa mia se ci vediamo così poco. Tutte le volte che torni da quell'isola... Infame, sei sempre più assente. Sei stanco, arrabbiato. Non mi hai neanche chiesto come stanno i ragazzi. Come devono stare? Bene. Uno al college, l'altro fa quel viaggio là in Inghilterra. Se la spassano loro. Jack ha finito il college 6 mesi fa. Siamo anche andati in California per festeggiare. Mm-hmm. Guardami. Guardati, Mark. Che cosa ti sta succedendo? Che succede? Parlami! Niente, Catherine! Niente! Le solite rotture di coglioni. Ieri uno al campo ha provato a impiccarsi. Ma non li sorvegliate 24 ore su 24? Non uno dei prigionieri, uno dei miei uomini. Si è attaccato alle palle del soffitto e il ventilatore è venuto giù. Salvato dalle forniture di merda che ci danno. Adesso il problema è che dobbiamo sostituirlo e chiaramente non ci sono reclute. Arrivano ad ammazzarsi, Mark. E tu ti preoccupi delle sostituzioni? Senti, non è colpa mia se mandano delle checche al campo. Dovrebbero starsene in ufficio a compilare moduli, invece di avere a che fare con i terroristi. Lo vedi? Non ci vuole stare nessuno là dentro. Come non ci vuoi stare tu. Io faccio solo il mio dovere. Ovvero? Ho sentito che fate delle cose orribili. Sono terroristi! Catturati in zone di guerra! E tu ne sei sicuro? Certo. È il mio lavoro farli confessare. Sui giornali ho letto che avete inventato degli interrogatori tremendi. Che usate delle luci che li accecano e la musica per assordarli per ore, finché non confessano, sperando che smettiate di torturarli. Ma tu che cosa ne sai, Catherine? Dove le leggi? Leggi queste stronzate? Sui tuoi giornaletti da casalinga disperata? Certo, lo dicono quei coglioni della Croce Rossa. Non fanno che rompere le palle. La Croce Rossa ha tutto il diritto di informarsi sulla condizione dei prigionieri e tu lo sai. Nessuno ha diritti nei confronti di quegli animali. Sono esseri umani. No, Catherine. Non sono esseri umani. Tu, io, noi siamo esseri umani. Noi che difendiamo la gente normale da questi cani malati. Hai visto quello che hanno fatto alle Torri Gemelle, eh? Sai cosa fanno ai bambini, alle donne, nei loro paesi? Questo lo scrivono sui tuoi giornaletti del cazzo! Noi dovremmo invadere il Medio Oriente in forza. Dovremmo andare lì, insegnare la civiltà a quelle bestie! Dovremmo andare dove sono gli assassini! Invece ci fanno badare a contadini e pastori! Allora quello che dicono è vero. Un militare dovrebbe ambire alla pace. Dovresti farci vivere in pace. Invece tu aspetti la guerra. Questi discorsi non mi piacciono e questi toni mi danno fastidio. No, ti dà fastidio la verità. Perché con tutte le bugie che succede su quello che succede laggiù, non ne sarei affatto sorpresa. Adesso basta, Catherine, zitta. Tuo padre, tuo nonno erano dei militari. Si sono fatti ammazzare per la nostra libertà. Tu invece sbatti in galera e torturi gente innocente! Adesso basta! No, io non ci sto più in silenzio! Mi fatto stare zitta troppe volte! Capri zitta! Zitta, cazzo! Catherine! Catherine, ascolta! Te l'eri già preparata! Catherine, non ti azzardare a uscire da quella porta! Io non sono una tua prigioniera. Aprendimo segrete. Se queda la Segretario Jenkins! Prego, prego, si accomodi! Ah, cubano? Sono qui per questioni di grande importanza, colonnello. E allora come posso esserle utile, segretario? Può spegnere la radio? Sa, non sopporto questo genere di musica. Vede, purtroppo nella baia le radio americane non prendono. Oh, ma uno ci si abitua, non si preoccupi. La spenga. Comincerò con farle una domanda, colonnello. Lei è in grado di non far trapelare la notizia del mio arrivo qui? Direi di sì. E io direi di no, dato che ci sono orde di giornalisti invasati che gridano allo scandalo per quello che accade in questo posto. Ma la politica del governo non è sempre stata smentire tutto quello che c'è di scomodo nei servizi giornalistici? La politica del governo ha anche messo lei a capo di questo posto, segno evidente che certe volte anche la politica può sbagliare. Segretario è venuta per depormi. Lei sta correndo il rischio, colonnello. Lei lo sa che la Croce Rossa è venuta a conoscenza di notizie di massima riservatezza riguardo la condizione dei nostri detenuti? Io penso che la Croce Rossa abbia tutto il diritto di informarsi sulla condizione dei prigionieri. Detenuti? O nemici combattenti, perché nessuno qui dentro gode dello status di prigioniero. Lei se lo ricorda? Mi scusi, segretario. Ma non saranno le sue scuse che metteranno a tacere la stampa. Inoltre, le notizie che lei tira fuori dai suoi interrogatori sono assolutamente insufficienti. Segretario, io faccio del mio meglio. Ma i miei sottoposti fanno discorsi del cazzo sulla violazione. Ma lei è linguaggio con me. E se il problema è l'attuale contingente, provvederemo a un semplice cambio delle reclute. Vi sfido io, segretario, a trovare persone che vogliono venire in questo posto. Perché tanto tutti lo sanno che qui dentro non ci sono medaglie, che qui dentro non ci sono riconoscimenti, che il nostro lavoro non serve a niente. Mio nonno ha condotto più di 20 attacchi aerei sulla Germania nazista. E io qui che sto facendo? Il babysitter! A un branco di bestie! La vuole sapere la verità? Segretario, quei musulmani non hanno niente da dirci! Lei deve farli confessare! Difficile far confessare chi non ha fatto niente! Adesso basta! Lei è al servizio dello Stato americano e non delle sue considerazioni personali. Quindi, sono le medaglie che vuole? O i riconoscimenti li avrà? Che cosa pensa che mi costi? Ma come posso promuoverla? Allo stesso identico modo posso assolverla da qualunque tipo di incarico. Sono stata chiara? Cristallina, segretario. La saluto, colonnello. Parlerò di te. Parlerò del ragazzo che sei stato. E dell'uomo che saresti potuto essere. Parlerò di te e di tutti coloro che se ne sono andati. Parlerò dei letti vetri, delle città vuote. Parlerò e griderò i vostri nomi sconosciuti finché anche il vento non li saprà ripetere a memoria. Parlerò finché non tornerai. Anche se non tornerai. Dammi quel cazzo di libro! Non abbiamo appena la sura! Dammi quel cazzo di libro! Ma che senso ha farci pregare se non ci fate finire la sura? Zitto, zitta! Detenuto! Besti di merda! Jamal! Che cazzo hai detto? Ho che detto cazzo hai detto? Besti di merda, amico! No. Sei morto. No! Sei morto! No, sì! La mia cazzo, zitto! Jamal! Vai! Ah. Vale! Vuoi vedere quanto so essere bestia? Dimmi che sei di Al-Qaeda! Dimmi che sei di Al-Qaeda! Rispondi, cazzo! Vaffanculo! Sei un musulmano terrorista del cazzo! Io sarò anche un musulmano! Ma ti dico una cosa, che ogni musulmano sarà sempre meglio di te! No! No! No! Vuoi che te le spezzi all'infinito? Dimmi dove è Villate! Dimmi dove è Villate, cazzo! Rispondi, assassino! Lo sai che posso tenerti qui per ore, giorni, settimane, non ve ne frega un cazzo! Gli sporchi islamici come te hanno ammazzato migliaia di innocenti, ma non ti viene voglia di impiccarti? E a te? Oggi per far luce sulle condizioni dei detenuti nella baia di Guantanamo. Ebbene, l'America non tortura le persone. I terroristi vengono trattati secondo le norme del diritto di guerra. Mi scusi, e secondo tutte quante. Chi è che stabilisce se una persona è o non è un terrorista? Visto che non sono stati istituiti tribunali che possano applicare questo diritto di guerra. Ma è il presidente degli Stati Uniti. È lui che definisce tali tutti quanti terroristi. Dunque, secondo le procedure. Il presidente si è arrogato questo diritto senza che alcun tribunale possa rivedere questa decisione. Questi non sono argomenti di competenza di una giornalista, dottoressa Foster, la conosco, sa? E quali sarebbero gli argomenti di nostra competenza? Ma lei per che giornale scrive, scusi? Le condizioni dei prigionieri sono detenuti o nemici combattenti sono così. È così che li chiama, perché in questo modo li esclude dalla Convenzione di Ginevra, non è vero? Abbiamo semplicemente cercato di far fronte a un vuoto normativo. Sarebbe questa la giustizia americana. E allora che cosa preferite? La loro giustizia? Quella che lapida le donne infedeli? Quella dei tribunali! Che però non possono aprire indagini su Guantanamo. Ci dica perché, segretaria? Ecco, questi sono gli argomenti che non la riguardano. Voi state prendendo uomini innocenti e li state richiudendo in un carcere che è un muso nero nella storia del diritto! E lei mi viene a dire che non è di mia competenza! Segretario! Jamal! Jamal! Jamal, è stata dura. È stata dura, eh? È stata lunga. Ho visto che non tornavi. Ero preoccupato. Quante ore sei stato là dentro? Mansur, mi hanno fatto degli strani discorsi. Che discorsi? Hanno detto che sanno dove sta la mia famiglia. Dove sta mio padre. Sanno dov'è che studia mia sorella. Hanno detto che non è facile continuare a studiare quando hai un fratello terrorista internazionale. Jamal! No! Se... No! Non è facile! Mansur... Jamal, tu non sei un terrorista! Loro ci dicono sempre tante... Come dici tu? Stronzate! E questa è la peggiore di tutte! Loro non lo sanno dove sta la tua famiglia! Loro ti vogliono spaventare, ci vogliono mettere paura. Me lo dicevi tu, ti ricordi? Forse se confesso mi rilasciano, Mansur. E tu vuoi confessare una cosa che non hai fatto? Sai che ti dico, Mansur? Vadano a fanculo. Vadano a fanculo loro, tutti i Marines del cazzo. Guantanamo agli Stati Uniti. Vaffanculo. Mentre eri via, Jamal, ho pensato una cosa. Senti qua. Io sono di Kabul e tu sei di Tipton. E non ci piace Bush, che è peggio di Clinton. Non siamo terroristi, noi siamo qui per sbaglio. Ma siamo musulmani e qui siamo un bersaglio. Io. Era buona, ma sì, bravo. Bravo. Sai, Tupac? Tupac diceva sempre una cosa. Che nel futuro ci sarà sempre qualcosa che ti toglierà il sorriso. Ma tu... Tu ricordati sempre come si fa a ridere. Malgrado tutte le stronzate. Ricordatelo sempre, amico. Zainab. Mia e amatissima. Parlerò di te, anche se non tornerai. Io parlerò al posto della tua bocca morta. Ti parlerò dei prigionieri di Guantanamo. Di ciò che il mondo deve sapere. Raccontami tutto. Catena per catena, cinghia dopo cinghia e passo dopo passo. Ti ho parlato di Jamal. Adesso, adesso non lo fanno più dormire. Ma lui, lui trova sempre il modo di ridergli in faccia a quei bastardi. Quanto vorrei avere il suo coraggio, Zainab. Nel 2009, la presidenza Obama presentò un piano per la chiusura del campo, ma il Senato rifiutò. Nel 2018, Donald Trump ha stanziato nuovi fondi per tenere aperto il carcere per altri 25 anni. Dei quasi 1000 prigionieri che si stima vi siano stati rinchiusi, soltanto 10 hanno ricevuto un regolare processo e nessuno è stato mai dichiarato colpevole. Affila i coltelli che un tempo è riposto! Volini nel mio petto, fra le mie mani, come un fiume di raggi scintillanti. Entra nelle mie vene, entrami in bocca, parla con le mie parole e con il mio sangue. Se Guantanamo avesse un volto, sarebbe quello di Jamal. Capo chino, spalle curve e occhi privi di pensiero. Ma è in quello stesso sguardo, Zainab, in quegli occhi, io vedo anche tutto il bene del mondo.